Que pequeno, Marrakech. Puta que pariu. Sono solo un altro senza Dio. Senza Dio. Senza Dio. Sono solo un altro anch'io. Sono solo un altro senza Dio. Senza Dio. Senza Dio. Sono solo un altro. Sono solo un altro senza Dio. Senza Dio. Senza Dio. Sono solo un altro anch'io. Sono solo un altro senza Dio. Senza Dio. Senza Dio. Sono solo un altro. Sono un santo delinquente, Jesus Malverde, col pendente al collo di reato pendente. Sono ancora tutto intero, ora prego non siano dietro. Non ci sono atei dove si rischia davvero. Il mio verso evangelo, servo la messa in camera. Ho smarrito il sentiero ma ho preso la panoramica. Mi chiedo se c'ho ancora un po' di anima. Se me lo chiedo ancora un po' di anima. I miei eroi sono morti, i miei nemici sono forti. Leggo preghiere sulle schiene di balordi. Sto tra poveri diavoli e ricchi miracoli. Il giocatore esperto gioca sempre su più tavoli. La trinità era un duo, basta il 500 sotto luce fluo. Venga il mio regno, non il suo. Alla mia morte fra ciò che mi attende un altro inferno. Lei ingoia la mia storia triste, dopo ingoia il resto perché sono solo un altro senza Dio. Senza Dio. Senza Dio. Sono solo un altro anch'io. Sono solo un altro senza Dio. Senza Dio. Senza Dio. Sono solo un altro. Sono solo un altro senza Dio. Senza Dio. Senza Dio. Sono solo un altro anch'io. Sono solo un altro senza Dio. Senza Dio. Senza Dio. Sono solo un altro. Sul telefono il dramma, l'applicazione sgama. Nelle vicinanze qua nessuno che mi ama. Con il cuore spinato, l'odio che ho respirato mi avvicina a lui. Quei tempi in cui i giorni sono bui, dopo mi succede che sta gente mi fa perdere ogni fede. La tua ragazza crede che io non sappia cosa faccia per la coca. Sta a ruota e tu sei giù da Iscariota. Chiedimi cos'è che nella vita non ho fatto. Ho provato tutto tranne il cazzo. Ma non ho mai pregato, non ho mai fregato un fratello per il grano cash caramello. Illuminato in blu da un cristal neon. Un viso triste, sì, non ti avevo mai visto il neo. Dalla lira all'euro ancora 20.000 in tasca. E se mi paghi passo da una religione all'altra. Illusione, delusione, collusione. Illusione, delusione, collusione. E ora sono solo un altro senza Dio. Senza Dio. Senza Dio. Sono solo un altro anch'io. Sono solo un altro senza Dio. Senza Dio. Senza Dio. Sono solo un altro. Sono solo un altro senza Dio. Senza Dio. Senza Dio. Sono solo un altro anch'io. Sono solo un altro senza Dio. Senza Dio. Senza Dio. Oh.